ancora, non ti fermare, disegnami il mio mondo in colore, disegnami il mio mondo in colore. Vorrei portarti fuori dall'immaginario labirinto, ma rischierei di perderti come un padre con suo bimbo. Rischierei di perderti come un padre con suo bimbo. Una voce lontana, una luce bianca. Una voce lontana è una forza stanca. Una voce lontana è qualcuno che ti chiama. Lasciami pensare a tutti e a nessuno, scontrarti con chi mi ha fatto parlare, ma io devo espormi e tu solo guardare. Illumina la mia notte venere nera, lasciami parlare a tutti e a nessuno, scontrarti con chi parlare, ma io devo espormi e solo guardare. Una voce lontana è una luce bianca, una voce lontana è una forza stanca, una voce lontana è qualcuno che ti chiama. Una voce lontana è una luce bianca, una voce lontana è una forza stanca, una voce lontana è qualcuno che ti chiama. Ricordi chi ti guarda e non si dà pace.